Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, parliamo di domande che ovviamente nella nostra vecchia Italia richiedono sempre una burocrazia alla quale bisogna in qualche modo attenersi, altrimenti rischiamo di perdere qualcosa. Raccontiamo questa vicenda accaduta ad una persona. Sì, è la vicenda di un artigiano della provincia di Venezia che poi appunto si è rivolto all'Adico e dopo aver perso sostanzialmente 14.000 euro di possibile indennità di disoccupazione. Ecco, noi raccontiamo la storia perché in realtà questi soldi persi non sono causati da un errore del CAF. Come ti ricorderai, Francesco, abbiamo già affrontato questa problematica, nel senso che noi abbiamo tante segnalazioni di persone che insomma hanno subito dei problemi, per esempio non hanno ottenuto degli sconti sugli asili nido proprio per degli errori del CAF. Ecco, in questo caso, sempre considerando che fanno molto lavoro, quindi qualcuno può anche sbagliare, in questo caso ci troviamo appunto di fronte alla situazione per la quale questo artigiano che aveva perso il lavoro si era affidato appunto a un CAF sempre del veneziano per preparare tutte le carte per chiedere la disoccupazione. Le carte sono state presentate, l'artigiano ha ottenuto la disoccupazione, poi nel 2016 questa persona ha deciso assieme a un parente di aprire un'azienda per conto proprio, un'azienda artigiana. Però cosa è successo? A questo punto chiaramente ha comunicato l'inizio di questa nuova attività sia al CAF che all'INPS. Al CAF gli hanno detto: guarda che comunque tu non hai sfruttato tutta l'indennità di disoccupazione, avresti diritto ancora a 14.000 euro, bisogna preparare una piccola documentazione da presentare all'INPS. Lo stesso CAF ha chiesto dei documenti relativi al nuovo inizio di attività, li ha presentati all'INPS, dopo gliene ha chiesti ancora degli altri ancora, insomma. A un certo punto il nostro socio si è rivolto all'INPS dopo aver ricevuto appunto una comunicazione dopo un po' di tempo da parte dell'INPS stessa, dell'ente che gli comunicava che non era stata accolta la sua domanda, si è rivolto all'INPS stessa e gli ha comunicato che appunto il CAF non gli ha girato la relativa documentazione. Ciò cosa significa? Che il CAF non sapeva esattamente cosa bisognasse inviare all'INPS per poter ottenere poi questi 14.000 euro che erano quello che avanzava di disoccupazione questo artigiano. Capisci bene, Francesco, che non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di una somma che a questa persona sarebbe servita molto anche per la propria nuova attività. Ovviamente. Per cui insomma ecco, noi siamo intervenuti, abbiamo chiesto spiegazioni al CAF, c'è stato anche risposto, però insomma in maniera molto vaga, per cui noi adesso cercheremo di proseguire. Però dobbiamo dire una cosa, infatti noi come associazione chiediamo più tutele per i contribuenti. Bisogna dire che i CAF coprono con la loro assicurazione esclusivamente eventuali sanzioni o eventuali more affibbiate dall'Agenzia delle Entrate per degli errori commessi da loro stessi, però ecco, vanno a pagare esclusivamente queste sanzioni e queste more. In questo caso qua difficilmente troveremo la strada affinché si possa far recuperare anche in parte questi soldi. Qua c'è un errore del CAF, però evidentemente a questo punto sarà solo il nostro socio a subirne le conseguenze. Questa è una brutta cosa, bisogna evidentemente cambiare qualcosa, anche perché se si chiede al CAF di fare anche delle pratiche diverse da quelle che sono la dichiarazione dei redditi o quant'altro, è giusto che questo sia coperto. Sì, Francesco, ci dispiace perché, ripeto, i CAF hanno migliaia di pratiche, milioni in Italia ovviamente, quindi non stiamo dicendo che tutti i CAF lavorino male. In questo caso però stiamo parlando di una situazione un po' particolare, stiamo parlando proprio di una non conoscenza da parte dell'operatore del CAF della necessità di presentare un determinato documento. Quindi noi andiamo anche a pagare questi servizi e pretendiamo ovviamente che ci sia una preparazione a 360 gradi. Ripeto, non siamo qui assolutamente come associazione a condannare i CAF, perché non è il nostro lavoro assolutamente, anche perché tanti lavorano molto bene. Chiediamo evidentemente che esistano delle tutele maggiori per proteggere il contribuente di fronte agli errori dei CAF stessi. Ecco, perché poi non si può essere ignoranti, e quindi ignorare di presentare alcuni documenti è fondamentale perché poi le pratiche vadano avanti. La cosa migliore è sì rivolgersi al CAF, ma poi anche come singoli darci una buona letta anche noi, cercare di fare la nostra parte perché può capitare che ci sia l'errore. No? Sì, è giustissimo, è purtroppo però molti, io stesso non avrei neanche i mezzi, diciamo, per poter poi andare a rileggere o cercare di capire se ci sono errori, però hai ragione te, nel senso che agli stessi CAF pensa, molte volte la scusa è ma dovevate leggere anche voi quello che abbiamo preparato, però insomma io ti affido una documentazione, pretendo che me la faccia tu, tra parentesi appunto ripeto, non tutti hanno i mezzi poi per poter verificare eventuali errori. Grazie per averci raccontato questa storia. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, che è il sito dell'Adico, dove trovate altre storie interessanti da leggere, i contatti e quant'altro. Grazie a Gianluca Codognato, alla settimana prossima. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.